La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, nonostante il giorno di Capodanno, anzi proprio per augurarvi un buon 2019 tutto di cinema, La Rosa Purpurea è qui in questa puntata speciale per portarvi un po' in giro per il 2019 del cinema e quindi non solo consigliarvi film da vedere, magari se avete voglia stasera di fare un salto in sala, se non siete troppo stanchi dopo il veglione, dopo aver festeggiato, e anche per raccontarvi soprattutto quello che durante il 2019 dobbiamo aspettarci dal cinema. Per questa puntata speciale, per questa puntata che ci introduce dentro un nuovo anno sul grande schermo, è qui con me un amico, un collega, Giorgio Viaro, direttore di Best Movie. Ciao Giorgio. Ciao, ciao. Grazie di aver accettato di passare il Capodanno con noi. È un ottimo modo di passare. Esatto. A parlare di cinema, perché appunto è un anno che si apre, un anno che si apre tra l'altro con un sacco di uscite subito il giorno di Capodanno, e quest'anno il fatto che Capodanno capitasse infrasettimanale, di martedì, ha portato i distributori evidentemente a sfruttare l'onda lunga e a cercare un'uscita anticipata rispetto ai film dell'Epifania. Ecco, questi diciamo dovrebbero essere quelli dell'Epifania, si sono spostati su Capodanno. Escono 6 nuovi film, tra l'altro tutti anche abbastanza interessanti come potenziale con il grande pubblico. La nostra trasmissione sarà proprio incentrata su quello che ci aspetta fino a dicembre di quest'anno, fino a dicembre del 2019, ma vogliamo darvi una piccola guida appunto a chi al cinema invece si vuole recare proprio in questi giorni. Allora, cominciamo ad entrare un po' nel vivo delle uscite di questo, non viene da chiamare weekend, viene da chiamare week center in qualche modo, di questo periodo lunghissimo tra Capodanno, esatto, e l'Epifania, questi 5 giorni che saranno un'orgia di cinema senza capo né coda, cominciando, e questo vedrete sarà uno dei tratti distintivi anche del 2019, da un supereroe, perché arriva sul grande schermo Aquaman. Mia madre è una regina, ma la vita mette insieme le persone. Potresti unire i nostri mondi un giorno. Ti stavo cercando. Il tuo fratellastro, Re Orm, vuole dichiarare guerra al mondo in superficie. L'unico modo per fermare la guerra è che tu prenda il posto che ti spetta come re. Credimi, non sono un re. Pensi meglio quando non pensi affatto. Un discorso d'incoraggiamento pietoso. Giorgio, dicevamo, sarà uno dei tratti distintivi del 2019, lo è già da qualche stagione, quello della presenza dei supereroi, dei loro derivati, ormai in qualche modo, degli spin-off, dei sequel e dei prequel. Aquaman non l'avevamo ancora frequentato, è perché stiamo raschiando il fondo del barile? sai, la vita dei supereroi su grande schermo non è del tutto parallela a quella su carta. Basta pensare al fatto che forse il più celebre dei supereroi Marvel è il più fortunato su grande schermo, è Iron Man, che non è certamente il più famoso se guardiamo quella che è stata invece la storia su carta. Allo stesso modo anche la DC, adesso che la maturità del suo universo cinematografico comincia ad essere una realtà, è dovuta andare a pescare un supereroe che non è certo tra i più famosi dell'universo DC Comics, paragonato a Batman o Wonder Woman, appunto, Aquaman. Però questa operazione secondo me è abbastanza interessante, perché è stata affidata a un regista che viene dall'horror, giovane come James Wan, ha fatto anche una parte della saga di Fast and Furious, è uno con un'idea di cinema molto dinamica, molto interessante, potrebbe portare qualcosa di nuovo all'universo DC al cinema. Senti, invece Disney punta per questa uscita di Capodanno su Ralph Spacca Internet. Il primo Ralph era stato abbastanza così, diciamo, intrigante. Qui dal chiuso di una scatola da gioco, di una macchinetta da bar, il nostro super mini supereroe, sì, grandissimo come sempre, molto molto sproporzionato, si tuffa nell'internet, nel web. Il salto è abbastanza logico in questo senso. Il risultato è interessante, perché allora, noi tutti quanti ormai viviamo gran parte delle nostre giornate dentro internet, seppur in modo figurato. Invece Ralph in questo film passa veramente tutto il film quasi dentro internet, quindi c'è stato un grande sforzo per trasformare questo mondo virtuale nel quale tutti viviamo figurativamente in un mondo reale, in un mondo concreto, colorato, visibile, visitabile, e il modo in cui è trasferito a livello cinematografico in una serie di personaggi, di palazzi, di situazione, il mondo di internet, e quindi anche tutte le sue realtà, Google, Amazon, eBay, tutto quello che è curioso, è stimolante, è divertente. Da una terza dimensione, una cosa che di solito viviamo come piatta, cioè si ferma la superficie del nostro telefonino, invece si va oltre. E invece, per chi ama anche a Capodanno i palati fini, cioè per chi vuole qualcosa di più dal cinema d'autore, dal cinema un po' più cinefil, arriva nelle sale un film che ha un titolo italiano, devo dire, piuttosto disgraziato, però insomma, che ricorda più un gioco televisivo che non quello che poi il film veramente racconta. Conta, si intitola Il gioco delle coppie. Viviamo in una società che rispetta i soldi e il potere. Più i libri costeranno e più saranno letti. Ma è giusto che uno scrittore si ispiri a persone reali? Sì, certo, si fa. Da che mondo è mondo? Ne pubblichiamo una versione cartacea e una per smartphone. Ora si legge così. In futuro leggeremo meno libri e saranno e-book. E il mio nuovo romanzo, allora? Lo pubblicherai? Certo che no, pensavo l'avessi capito. Olivera Sayas dietro la macchina da presa, e quindi un nome, potrei dire una garanzia. Lì davanti invece ci sono nomi importanti del cinema francese, ne faccio uno su tutti, quello di Juliette Binoche, tanto per dare così il via a chi si fa anche guidare dalla scelta degli attori. Titolo originale Double V, cioè le doppie vite, e come capite col gioco delle coppie forse si è giocato un po' a cercare di renderlo un po' più commedia, un po' più appetibile a un grande pubblico. Sì, beh, l'interessante è che c'è anche quella chiave nel film, ovviamente non è predominante. Olivier Assayas è un grande autore, un grande intellettuale, quindi è chiaro che il piacere principale in questo film è nell'ascolto di questi dialoghi, di questi monologhi, di questi personaggi straordinariamente affascinanti che vivono il mondo dell'editoria da entrambi i lati, quindi sia quello di chi pubblica che di chi vorrebbe pubblicare. Però il film, nel suo essere sofisticato, intelligente, è anche effettivamente divertente e affascinante nel gioco delle coppie e delle relazioni amorose dei personaggi. Io lo consiglio spassionatamente a chi cerca una proposta un pochino più d'essai in questi giorni. E per chiudere le uscite di questo primo gennaio, andiamo dentro, proprio in mezzo all'orrore con Suspiria. In un primo momento mi ha dato qualcosa. Equilibrio perfetto, sonno perfetto. Ma ora vuole entrare dentro di me. Posso sentirla. Lei può vedermi. Madame Blanca è incredibile. Uno e due. La passione che mette nel suo lavoro. Devi decidere. Che cosa vuoi essere per questa compagnia? In quell'edificio c'è più di quello che si vede, dottore. Luca Guadagnino che rifà Dario Argento tanti anni dopo, cinematograficamente sono ere geologiche addirittura, e anche con una mano, quella di Guadagnino che abbiamo conosciuto fino adesso, che tutto ti aspetti tranne che un horror di questo tipo. Com'è andata? Beh sì, più che rifare, omaggia Dario Argento, nel senso che c'è davvero pochissimo del film originale, se non diciamo la sinossi di base, cioè la trama di base del racconto di questa ragazza che va in questa scuola di danza, che si capirà poi piano piano essere un covo di streghe. Il film, mentre il film di Dario Argento insomma era una sequenza di omicidi, era veramente molto exploitation, qui invece Guadagnino, che è un grande autore, fa un quadro storico straordinario della Germania degli anni 70 e cala i suoi personaggi in questo quadro storico, dilatando molto i tempi, dilatando le atmosfere, e quindi l'orrore punteggia qua e là il film più che essere l'elemento centrale. Certo, preparatevi, perché ci sono un paio di sequenze, una all'inizio del film e una proprio alla fine, che invece sono puro horror e anche molto pesante. E allora, avete visto, grande varietà in questo primo gennaio con questi film che ci accompagneranno sicuramente fino a tutto questo weekend, ma probabilmente anche oltre. Adesso noi diamo la linea di viabilità, fra poco torniamo e cominciamo a visitare per bene questo 2019 a partire dal primo quadrimestre. Di DAB, buone feste! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Ah, certo, non costi niente e mi fai ascoltare le radio che amo con il suono perfetto. E in più, fra pochi mesi sarò in tutte le auto nuove. Festeggia anche tu l'arrivo ufficiale della Digital Radio. Se stai per comprare un'auto, pretendila con il sistema DAB Plus dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, speciale Capodanno, speciale 2019 al cinema. Cosa ci aspetta durante questo anno appena iniziato, appena nato, sul grande schermo? Abbiamo visto le uscite di questo primo gennaio, giusto per dare dei consigli pratici a chi al cinema ci va in questi giorni, ma adesso cominciamo a galoppare in avanti, a cominciare da questo primo quadrimestre, che comincia già a regalare qualche film importante, qualche titolo importante. Intanto arriveranno subito nelle sale titoli come Creed, come Zemeckis con Benvenuti a Marwen, come il primo Re, che mi incuriosisce molto, devo dire. A parlarne sono qua con Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, e lo ricordo che ci sta un po' aiutando a districarci in questa selva di titoli, perché Giorgio, sono, diciamo che sono in Italia mediamente 350-400 titoli all'anno, no, che escono in sala. Mica facile vederli tutti, devi farlo di professione, è impossibile. E anche così, devo dire, che pone le sue problematiche. Ma dicevamo, il primo Re, appunto, tentativo italiano di film, un peplum quasi, se vogliamo, anche se non è quella la cifra. Un pre-peplum, esatto. Diciamo, quello che c'era prima dei peplum. Qui si racconta proprio la nascita di Roma, la storia tra il mito e la verità che ha portato alla fondazione di Roma, e quindi la storia dei fratelli Romolo e Remolo. È un film molto crudo, molto violento. Assolutamente. E però il 17 di gennaio arriva forse il primo dei film che un po' ci hanno stimolato nello stendere questa scaletta, perché è il ritorno di M. Night Shyamalan, che è un regista amato, odiato a volte, ma insomma che secondo me ha dato tante cose importanti al cinema recente di genere. Poi si è spostato da un horror un pochino più verticale a qualcosa di più d'atmosfera. Ha cominciato a fare film anche con meno soldi, sapendo gestire bene la macchina cinematografica. Adesso arriva con questo Glass il 17 gennaio, dove praticamente mette insieme alcuni elementi di suoi precedenti film, e direi che da Unbreakable a Split il minimo condominatore sono Bruce Willis e James McAvoy. Sentiamo. Voi tre vi siete persuasi di avere doti straordinarie, come i personaggi di un fumetto. David Dunn, anni fa, è stato l'unico sopravvissuto a un disastro ferroviario. Pensa di avere superpoteri. Mi chiamo Patricia. Ci sono indubbiamente una ventina di identità. Ti abbiamo fregato! Che coesistono nel suo corpo. Ma quello che metto in dubbio è la vostra convinzione che siate in qualche modo sovrumani. Eppure, è così. Sai, Giorgio, cosa mi piace di questo Glass produttivamente? Il fatto di non essersi fermati a fare un sequel di un film che era andato bene, ma di avere pescato nel proprio passato e di averne fatti due in una volta. Beh, questa è un'operazione davvero molto interessante. Forse Shyamalan è l'unico autore che è riuscito a mettere in piedi un universo supereroistico che fa concorrenza a quelli tradizionali della DC e della Marvel, ma che è interamente originale, nel senso che i suoi personaggi, quindi il personaggio di Bruce Willis, il poliziotto indistruttibile, che il guardiano, diciamo, indistruttibile che abbiamo visto in Unbreakable, l'uomo dalle 24 personalità che si trasforma nella 24esima, la bestia, una creatura di potenza sovrumana che abbiamo visto in Split, e adesso il ritorno al centro della narrazione dell'uomo di vetro, il super cattivo di Unbreakable, interpretato a Samuel Jackson. È davvero la quadratura di un cerchio molto interessante. Andiamo avanti. A febbraio arriva nelle sale Alita, Angelo della Battaglia, un altro film che prende le mosse, diciamo, dal mondo manga, dal mondo anime, e che però ha una protagonista appunto al femminile, che ha dato forse anche qui una piccola svolta anche alla storia di questo tipo di personaggi. Beh, innanzitutto qui dobbiamo dire che c'è dietro al progetto James Cameron. Insomma, lui quando si mette in testa di fare una cosa vuole sempre spostare il cinema un po' più in là di dove è arrivato fino a quel momento. Qui la cosa molto interessante è che nel film interagiscono senza soluzione di continuità visiva creature digitali e creature umane, cioè attori che recitano in live action, e quindi tu davvero fai fatica a capire dove finisce la realtà e comincia la finzione all'interno della stessa inquadratura, perché Alita, per esempio, è un personaggio che nel film è basato su un'attrice, ma poi i suoi tratti sono alterati, perché in realtà la protagonista del film Alita è un cyborg, è una creatura artificiale con un cervello umano. Quindi è una grande sfida produttiva, una grande sfida d'immaginario, ed è anche un film d'azione molto intenso. Ti turba che io non sia completamente umana? Sei la persona più umana che abbia mai conosciuto. Alita, devi essere responsabile. Sei un essere molto speciale. Ragazzina! Non una teenager qualsiasi. Ehi, qual è il problema? Non puoi ricordare. Di cosa parli? Doc ti ha trovata nella discarica. E sono solo una ragazza insignificante. E a proposito di supereroine al femminile, il 6 marzo arriva Captain Marvel, che a dispetto del titolo va interpretato come una sorta di capitanessa, ecco, in questo senso. Prima eroina Marvel con una pellicola totalmente dedicata, un po' una risposta, se vogliamo, a Wonder Woman, con un piccolo assaggio che era già stato inserito nella finale dell'ultimo capitolo degli Avengers. Sì, proprio praticamente l'ultimo fotogramma, quando Nick Fury, giusto prima di sparire per mano della magia, diciamo, compiuta da Thanos col suo guanto, lanciava il richiamo, e questo richiamo era un richiamo d'aiuto nei confronti di Captain Marvel. E quindi anche qui ci sarà da verificare. Vedete come già sta salendo il clima del mondo, dell'universo dei supereroi al cinema durante questa stagione. Ci mettiamo insieme un altro film, anticipiamo un attimo il mese di aprile, poi chiuderemo questo primo quadrimestre parlando di Dumbo. Ma prima, proprio per analogia, invece, abbiamo parlato di Marvel, sul versante DC c'è anche qui una novità che si intitola Shazam. Sei scappato dalle famiglie affidatarie di Sei con te. So badare a me stesso. Puoi avere un superpotere? Quale vorresti? Tutti scelgono volare. Sai perché? Per volare via da questa conversazione. No, perché gli eroi volano. Billy Batson. Io scelgo te. Come campione. Di il mio nome e i miei poteri scorreranno in te. Ma io non so qual è il suo nome. Shazam. Giorgio, Shazam è un po' la storia del supereroe adolescente che è però un ragazzo normale. Mi vengono in mente personaggi come quelli, fatte le proporzioni della produzione italiana, come quello di Salvatores nella sua recente incursione nel mondo dei supereroi, oppure anche come un nuovo volto che sta venendo fuori un po' dell'Uomo Ragno negli ultimi film che andremo a vedere anche durante. C'è il tentativo di raccontare veramente la normalità, la quotidianità, anche un po' la paura di scoprirsi addosso questi superpoteri. Beh sì, anch'io ti avrei citato Spider-Man come riferimento, anche se qui siamo in una chiave ancora più comica, ancora più burlesca, quindi è la classica situazione del ragazzino un po' sfigato, magari bullizzato a scuola, insicuro, un po' nerd, che vorrebbe spaccare il mondo ma non è in grado di farlo, e poi improvvisamente per questioni così soprannaturali scopre di poterlo fare quindi è gasatissimo. Qui siamo in un piccolo, in fondo, cinecomic, in un piccolo superhero movie molto virato alla commedia. 5 aprile la data di uscita di Shazam, il 12 aprile la settimana dopo, e anche qui siamo di fronte a un immaginario che è firmato col sangue Guillermo del Toro, proprio in tutto e per tutto, sin dall'inizio, da quando questo personaggio Hellboy è arrivato sui grandi schermi. Ma insomma, arriva un reboot in questo caso, quindi una riedizione, un restyling. Ti chiedo, ce n'era bisogno? Cioè, è un personaggio che è già così da reinventare, Hellboy? Allora, secondo me Hellboy è un grande personaggio. Sicuramente la versione interpretata da Ron Perlman e diretta da Del Toro ha fatto storia, e quelli resteranno dei grandi film. Però credo che il personaggio abbia un grande potenziale, che quello che ha creato Mike Mignola sia veramente forte e tutto sommato originale all'interno dell'universo supereroistico. Quindi io sono contento che torni sul grande schermo. E ricordiamo che l'Hellboy nuovo sarà interpretato dallo sceriffo di Stranger Things David Harbour, quindi non più Ron Perlman in questo caso, ma un film sicuramente tutto da vedere. Dicevamo però, il primo quadrimestre secondo me forse sarà, che come dire, da buon padre di famiglia e anche da appassionato delle vicende Disney, vedere tutti questi personaggi che hanno popolato anche la nostra infanzia diventare live action fa sempre una certa impressione. Però insomma, io ci sarò quando nel mese di marzo arriverà sui grandi schermi la nuova versione di Dumbo. Benvenuto, piccolo Dumbo. Siamo una famiglia qui. Possiedi una qualità molto rara. Sei un prodigio. Forza! Ce la puoi fare, Dumbo. Coraggio. Vola, Dumbo. Vola. La storia di Dumbo ha commosso generazioni e generazioni, Giorgio. Qui c'è anche dietro la firma di Tim Burton. Credo che questo sia uno dei trailer con il record di lacrime versate dagli spettatori già durante il trailer. Già durante il trailer, nel senso che quando è uscito. Insieme al Re Leone, più sì, o meno. Forse insieme al Re Leone. Beh, insomma, dai, quest'anno la Disney del Re Leone, magari parleremo dopo, certo, perché viene fatta la stessa operazione, sta calando gli assi, cioè prende davvero due dei suoi più straordinari, più potenti cavalli di battaglia e li porta dal mondo dell'animazione al mondo del live action, in questo caso con un regista come Tim Burton, anche molto azzeccato. Non saprei che altro aggiungere su Dumbo, è una storia che conosci tanto chiunque. La quindi storia è quella, non cambia sicuramente, però insomma citiamo per esempio le presenze cameo sempre interessanti: Michael Keaton, Danny DeVito, Colin Farrell, insomma sì, si sì, popola chiaramente all-star, un cast straordinario. Voglio ricordare, sempre ricordando un cinema d'antan che piaceva tanto ai bambini, che arriverà nelle sale anche un film su Stanlio Ollio, un film biografico. Sì, lì torniamo nell'ambito del cinema d'essè, diciamo. Il film si è visto per noi critici già alla fine dell'anno scorso alla Festa del Cinema di Roma. È un film molto azzeccato, molto commovente. I due protagonisti che reinterpretano Stanlio e Ollio sono veramente straordinari, truccati in modo straordinario, in particolare per assomigliare agli originali, e il film è azzeccatissimo, è breve ma efficace, intenso, commovente. E allora, questo è il primo quadrimestre del 2019, adesso diamo la linea alla regia, fra poco entriamo nel secondo quadrimestre, da maggio ad agosto, per scoprire che, incredibile, forse nel 2019 ci sarà anche un'estate al cinema. Fra poco. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. La Rosa Purpurea. Prosegue la Rosa Purpurea di Capodanno, la Rosa Purpurea che vi porta in giro per il cinema del 2019. Con me Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, che ci sta aiutando un po' a districarci, come dicevamo, in questa matassa. Giorgio, tra l'altro voi avete un numero speciale, se non sbaglio, che racconta un pochino anche i film più attesi di questo 2019. Eh sì, il numero di dicembre, magari in qualche edicola si trova ancora, nel numero di dicembre abbiamo presentato tutto quello che sono i film più interessanti, 30 film più interessanti che arriveranno in sala nel corso dell'anno. Togli una curiosità, in quello di gennaio invece? In quello di gennaio abbiamo fatto le classifiche, quello che trovate adesso in edicola, trovate in modo capovolto, trovate tutto il meglio di quello che è stato invece il 2018. Non abbiamo voluto farlo nel numero precedente perché volevamo finire prima il 2018 per poter fare le classifiche con tutti i film davvero che uscivano. Allora Giorgio, prendiamoci 30 secondi e dici cos'è il meglio del 2018. Ah, beh, io ti dico cos'è il meglio per me, cioè, e quindi qual è il film migliore secondo la redazione di Best Movie. Certo. Che è Il Filo Nascosto, il capolavoro di Paul Thomas Anderson, che è uscito a inizio 2018, quindi ormai un anno fa. Invece per i nostri lettori, come ci si poteva immaginare, è Avengers Infinity Wars, è stato il film più amato, e tra l'altro c'è un'attesa spasmodica, ecco, per un film di cui parleremo tra poco. Assolutamente, anzi adesso direi, perché proprio mi dai la stura per parlare del primo film. 3 maggio arriva nei cinema italiani Avengers 4. Cibo e acqua sono finiti 4 giorni fa. L'ossigeno finirà domattina. Eppure, quando mi addormenterò, tu sarai nei miei sogni. Abbiamo perso amici, familiari. Combattiamo per la sopravvivenza. Funzionerà, Steve. Lo so bene, perché altrimenti non saprei che fare. Il popolo degli Avengers, il popolo dei grandi fan di questa saga, si chiede soprattutto due cose. Uno, sarà finita qui? Cioè scopriremo che fine hanno fatto e che fine fanno, e sarà finita per tutti? O qualcuno invece lo ritroveremo nell'universo degli Avengers? Beh, sarà finita senz'altro per qualcuno, anche perché per esempio Robert Downey Jr. ha già annunciato che questo è il suo passo d'addio alla saga. Forse in qualche misura lo vedremo anche nel secondo Spider-Man, ma fondamentalmente lui sta esaurendo il suo ruolo all'interno del mondo degli Avengers, anche perché ormai è tanti anni davvero. Insomma, in fondo il primo Iron Man è stato quello che ha lanciato il Marvel Cinematic Universe. Certo, di sicuro non tutti scompariranno, insomma anche la generazione dei supereroi e degli attori che li interpretano nel Marvel Cinematic Universe si è andata comprando componendo nel corso degli anni, e quindi abbiamo i decani come Robert Downey Jr. e attori invece più giovani per il Marvel Cinematic Universe come la Brie Larson, di cui parlavamo poco fa nell'ambito di Captain Marvel, che sicuramente avremo ancora per tanti anni. E comunque Avengers 4 è sicuramente uno dei titoli di quelli che fanno stagione in qualche modo, no? Fanno annata quasi, io ti dico, se guardiamo le statistiche per esempio sul sito di Best Movie, in ogni momento metà delle news su cui sono i nostri lettori sono news su Avengers 4, per esempio sulle teorie di come cavolo faranno gli Avengers a tornare in vita, a battere Thanos, universi quantistici, sdoppiamenti, viaggi nel tempo, un delirio. Fantastico, gran tempo libero, devo dire, esatto. In questo beati senso, loro. Beati loro che riescono. E spostiamoci di una settimana, perché il titolo rimanda a quelli che non hanno più 20 anni, diciamo così, a un classico della letteratura e del cinema horror di tanti tanti anni fa, si intitola Pet Sematary. Era una leggenda. I bambini si sfidavano ad andare nei boschi di notte. Quei boschi appartengono a qualcos'altro. Forse è solo un racconto popolare, ma in quei boschi accade qualcosa. Qualcosa che riporta chi se n'è andato. A volte è meglio essere morti. All'inizio fu il romanzo di Stephen King nel 1983, nell'89 arrivò un primo film, tra l'altro nella colonna sonora c'erano i Ramones, mi ricordo, era un film post-punk, che in qualche modo 2019 questo cimitero degli animali torna, e torna Giorgio con la forza e l'efficacia del cinema di oggi. Ma io sono molto curioso, devo dire, di questo sequel. Sono particolarmente legato al romanzo perché, pensa, era un romanzo che quando ero più o meno, avevo 10-11 anni, mi leggeva la nonna, che fu quella che mi introdusse di Stephen King. Sì, era molto avanti e mi leggeva Pizze Metri per spaventarmi. E quindi io ho questo ricordo d'infanzia legato a questo romanzo terribile e affascinante, in cui appunto in questo cimitero, vecchio cimitero indiano, se tu seppellisci qualcosa, quella cosa tornerà in vita. Beh, straordinario, insomma. Quindi aspettiamoci di tutto, insomma, da questo nuovo capitolo. Stephen King, devo dire, è sempre una fonte inesauribile. Adesso vedremo anche che torna anche It durante questa stagione. Insomma, è veramente senza fine. Torna It, insomma, e anche il suo ultimissimo romanzo, The Outsider, è già stato opzionato, ha fatto a tempo uscire che era già opzionato per una serie TV. Quindi è davvero senza fine la sua produzione e la sua capacità di intercettare gli immaginari che si muovono assieme al tempo. E allora, sempre maggio, come vedete è un mese bello intenso, prendetevi dei giorni perché ci sarà molto da andare al cinema. 22 maggio, per chi ama il musical e ancora una volta il mondo Disney, abbiamo parlato di Dumbo, parleremo del Re Leone, beh, arriva un altro che sa farci volare sul tappeto volante nelle sue notti d'Oriente, ovvero Aladdin. Solo un uomo può entrare qui. Colui che ce l'ha in sé. Il proprio valore. Un diamante allo stato grezzo. Ne abbiamo parlato anche nella nostra puntata speciale di Santo Stefano, tutta dedicata al musical. Aladdin è uno di quei titoli, insomma, che hanno mosso e muovono molto. Magari non è nella top 5, diciamo, di quelli super frequentati del mondo Disney, però è molto generazionale. Cioè, vai a scoprire che Aladdin, per esempio, come Hercules, sono film che hanno detto molto esattamente a chi aveva gli anni giusti in quel momento lì. Poi magari non sono rimasti molto prima e dopo. Però adesso, con questo reboot, sempre con le straordinarie musiche di Alan Menken, con queste melodie straordinarie e, insomma, i tappeti volanti, quando li vedi volare davvero fanno una certa impressione. Il paradosso è che questi forse non sono i film più azzeccati per me e te, nel senso, certo, che è stata la generazione dopo che li ha visti da ragazzini, mentre per noi è più forte Dumbo, no? Sicuramente pensare a quel tipo di live action o altri mondi così. Esatto. Quindi io credo che abbia un potenziale un po' minore rispetto agli altri cartoni che diventeranno quest'anno live action per la Disney, però allo stesso tempo, se il film sarà azzeccato, potrebbe essere ancora più importante il salto fatto rispetto all'animazione con le potenzialità che offre il live action. Assolutamente. Dirige Guy Ritchie, tra l'altro, che insomma è uno della scuderia, uno che sa bene come muoversi in questi mondi qui, dove c'è anche la musica da far ballare, da far danzare, da far ascoltare insieme al movimento. Dovrebbe dei... essere un Aladdin un po' rock, questo, assolutamente, diciamo. Assolutamente. Beh, è un personaggio abbastanza rock, sì, Aladdin, sì, sommato. E chiudiamo maggio in bellezza, direi, perché il 30 maggio arriva nelle sale Godzilla 2, King of the Monsters. Senatori, Noi crediamo che questi titani siano solo la punta dell'iceberg. Quali di questi titani sono qui per proteggerci? E quali di questi titani sono una minaccia? Quindi vorrebbe fare di Godzilla il nostro animaletto? No. Noi saremo i suoi. Cosa da dire ancora a questo animalone che ha coniato uno dei motti della nostra società? Cioè, il vero filosofo è Godzilla quando dice le dimensioni contano. Beh, è il grado zero del blockbuster, se ci pensi. Le dimensioni contano. O anche potremmo dire noi ce l'abbiamo più grosso, il mostro. Nel senso, è proprio, siamo al grado zero. No, io sono curiosissimo, davvero è un grande divertimento per me pensare al secondo Godzilla, dove interverranno anche tutti gli altri mostri che fanno parte di questo universo che nasce giapponese ed è stato adesso adottato dagli americani. Quindi avremo draghi a due teste e molte altre creature affascinanti. Grandissimo e rutilante il mondo di Godzilla. Se gli Avengers avevano aperto il mese di maggio, gli X-Men, i loro rivali potremmo dire in affari, aprono il 6 giugno con Dark Phoenix. Credi di potermi curare? Jean, tu non sei malata. Charles, che cosa hai fatto? Dovevo mantenerla stabile. L'ho protetta. Sono venuta a cercare risposte. Senti che il tuo posto non è qui. È vero. Si sta trasformando. Giorgio, tu fra gli Avengers e gli X-Men da che parte stai? Ah no, io scelgo facile gli Avengers, anche perché ti confesso che a me i film degli X-Men paiono tutti uguali. Adesso concedi. No, nel senso che è l'altro lato di quello che dicevamo prima di Spider-Man. Cioè, qui invece si tratta sempre di ragazzi, ragazzini o uomini che si scoprono con i superpoteri e si incasinano tantissimo, vanno in depressione, vanno dall'analista, che in questo caso è rappresentato dal professor X o da Magneto. Ma mi sembra che un po' la struttura dei film sia sempre quella. In questo caso viene preso uno dei personaggi più famosi dell'universo degli X-Men. Più che altro è straordinario come ogni volta per questi film mettano assieme un cast allucinante, che secondo me nemmeno nei film del Marvel Cinematic Universe tradizionale possiamo trovare, perché abbiamo ogni volta Fassbender, McAvoy, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, c'è una sfilata Hugh Jackman, ma ti ho detto i primi venivo, ma saranno 20 nomi senza esagerare. Locandina orizzontale, cioè, no, è una cosa incredibile. Assolutamente. Ecco, 6 giugno X-Men Dark Phoenix, 13 giugno, e qui è un ritorno che ci titilla abbastanza, Men in Black 4, non ci sono più Will Smith e Tommy Lee Jones, anche qui aria di rinnovamento con Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei panni di questi signori in nero. Beh, quello secondo me è un bel franchise che fanno bene a riscoprire, perché questo miscuglio di fantascienza, commedia, spionaggio è interessante e anche abbastanza originale, cioè non è una cosa che mi pare che si va a sovrapporre a qualcos'altro. Come i Men in Black, ci sono solo i Men in Black. Assolutamente. Quindi sono contento che tornino. Non sono stati in questo senso seminali, non sono stati seguiti, chissà perché poi, però effettivamente sono rimaste anche nell'uniforme, anche nel look, esatto. Sono rimaste un po' un unicum, forse avevano avuto maestri importanti come quelli che erano in missione per conto di Dio, esatto. Dall'altra parte i migliori in assoluto. Ecco, 21 giugno e qui il cuore si apre, perché siamo di fronte a un altro di quegli assi di casa Disney che se ne sta giocando tanti in questo 2019, si intitola Toy Story 4. Stanno facendo un altro capitolo di Toy Story. Io amo Toy Story, zio! Oh, dico, parliamo di Buzz Lightyear? Sono Buzz Lightyear, Space Ranger. Fa quella cosa quando vola, falla. Verso l'infinito e inoltre. Vai, aspetta, cosa? Sì. Non è così, lo faccio io. Verso l'infradito c'è la coltre. Verso l'impunito e inoltre. Verso l'inaudito e... Verso l'indefinito. Ragazzi. Non è come dite voi, è verso l'infinito e oltre. Woody, Buzz, gli amici giocattoli che si animano in assenza di presenze umane. Giorgio, la trilogia di Toy Story aveva seguito veramente la crescita di una generazione, quasi come anche nella storia, no? Alla fine il bambino era diventato grande, i suoi giochi avevano finito un po' la loro missione, era finita lì. Che cosa li rianima in questo quarto capitolo? li rianima il portafoglio della Pixar che si vuole gonfiare di nuovo, nel senso cinico. Che anche economicamente è uno dei forse in assoluto il brand più fortunato di tutti quelli che ha creato la Pixar. Sono curioso, in realtà si sa pochissimo per ora anche proprio della sinossi del film, non è stato, a parte questo teaser che abbiamo sentito, un po' divertente, che abbiamo sentito prima nella clip, non è ancora stato rilasciato nulla. È interessante perché è il primo film di Toy Story post Lasseter, cioè post scandalo, che ha tolto dall'equazione John Lasseter, che è il papà, no, di tanti capolavori Pixar, in particolare Toy Story, e soprattutto viene questo film dopo Toy Story 3, che era un capolavoro assoluto. Questa è una delle poche saghe che è andata crescendo sempre, pur partendo da un livello molto alto, quindi non sarà facile mantenersi sui livelli di Toy Story 3. Senti, prendiamoci un minuto prima di dare la linea alla viabilità per raccontare il film dominante di luglio, che sarà Spider-Man Far From Home. Beh, Spider-Man Far From Home è una è il sequel del primo Spider-Man, Spider-Man Homecoming, incarnato da questo attore ballerino performance di Broadway straordinario che è Tom Holland, e porta avanti la sua storia. Sarà il primo film del Marvel Cinematic Universe dopo la rivoluzione che verrà compiuta da Avengers Endgame, cioè dal Avengers 4. Quindi lì sarà soprattutto la curiosità di vedere come ripartirà il Marvel Cinematic Universe dopo questa sorta di azzeramento di punto messo dal quarto Avengers. E allora, adesso noi facciamo un piccolo break, vi dobbiamo ancora agosto per quanto riguarda il secondo quadrimestre, prima però sentiamo come vanno le cose sulle strade, perché poi c'è da fare tutto un ragionamento anche proprio sull'estate al cinema. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, la quarta parte della Rosa Purpura, speciale Capodanno, speciale 2019, con Giorgio Viaro, direttore di Best Movie. Siamo al rush finale, fra poco affrontiamo l'ultimo quadrimestre dell'anno. Chiaramente, man mano che ci allontaniamo dall'oggi, le date di uscita sono sempre un po' più labili, i trailer non ci sono ancora, ma chiaramente però possiamo anticiparvi i titoli e già un po' il senso di quello che andremo a vedere. Però volevo chiudere il discorso sull'estate, Giorgio, perché abbiamo visto un giugno fortissimo, maggio non ne parliamo neanche, ma giugno sicuramente molto forte, a luglio c'è comunque Spider-Man, ad agosto c'è un altro titolo dell'universo X-Men come The New Mutants, c'è uno spin-off della saga di Fast and Furious, Hobbs and Shaw, e soprattutto il 21 agosto fa già un po' rima col rientro delle vacanze, se vogliamo, ma insomma è ancora in agosto. Il 21 agosto arriva uno dei lungometraggi Disney animati più amati, e questo è un film che ha fatto il salto generazionale, è riuscito a mettere insieme le famiglie anche grazie a un grandioso, straordinario musical a Broadway, e si intitola, come avete immaginato e avete indovinato sicuramente, Il Re Leone. Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno, ma il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà sul nuovo re, e sarai tu. Il Re Leone, sempre versione musical, le straordinarie musiche di Hans Zimmer, con un nuovo brano di Elton John, con una diva vocalmente presente come Beyoncé, con le voci, cast vocali originali che vanno da Danny Glover a Chiwetel Ejiofor a James Earl Jones. Anche lì a Disney non si risparmia per quanto riguarda le voci, e quindi sarà un 21 agosto, sarà una fine agosto che sicuramente avrà nel Re Leone, a mio modo di vedere, uno dei 2, 3, 4 titoli che alla fine dell'anno saranno quelli che hanno probabilmente incassato di più. Ti chiedo, Giorgio, abbiamo guarito il nostro mal d'estate al cinema? Non sono del tutto convinto. Nel senso che abbiamo davvero uscite grosse e importanti quest'anno a giugno e ad agosto. A luglio continua a esserci poco e niente, cioè c'è Spider-Man all'inizio, ma c'era anche 2 anni fa Spider-Man Homecoming, mentre per il resto di luglio per ora non è annunciato niente. E ad esempio Re Leone esce il 21/8, in cui quella è tipicamente una data in cui c'è un grosso cartoon che lancia la nuova stagione. Successo con Cattivissimo Me, con i Minions, cioè è una data tipica, con Hotel Transilvania, una data tipica per il cartone che rilancia la stagione. Diciamo che forse le cose che un pochino scaldano gli esercenti, così che si troveranno a avere qualche film in più, sono lo spin-off di Fast and Furious l'8 agosto e questo horror che rilancia e riporta una generazione ancora più giovane alla saga degli X-Men, New Mutants, il 15 agosto. Però tieni anche presente che questo è l'anno in cui non ci sono né i mondiali né gli europei, né le olimpiadi, e spesso in questi anni la produzione che arriva nelle sale in quei mesi è un po' più forte. Io ho l'impressione che stiano vendendo una cosa che in parte è vera, in parte è un po' una trovata pubblicitaria, ma non è del tutto rivoluzionaria, ecco. Beh, lo staremo a vedere, perché chiaramente questi listini pian pianino si arricchiranno, certo. si completeranno sicuramente. Settembre arriva quello che è stato un titolo che è andato oltre il successo che ci si poteva aspettare. Stiamo parlando del secondo capitolo di It, dicevamo prima, Stephen King, fonte inesauribile, però davvero non ci si poteva forse aspettare un successo planetario di questo livello per il reboot di It, che adesso ci regala un secondo capitolo. È stata la grande sorpresa dell'anno scorso in termini di incassi, così come nell'anno appena passato lo è stato Bohemian Rhapsody. Credo che siano stati negli ultimi due anni i casi di botteghino straordinari, perché senza far parte di un grande franchise supereroistico, un Harry Potter, una di queste cose qua, sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico in tutto il mondo. It è una storia potentissima, e se è andato bene il primo capitolo, questo secondo capitolo, che è la conclusione del primo e che presenta però un cast del tutto nuovo, perché ricordiamo che dal primo It al secondo It, cioè dalla prima parte del libro alla seconda parte del libro, i protagonisti crescono, penso farà altrettanto successo. E infatti qui si va su un pubblico anche più adulto, una versione un po' più adulta in questo senso. Ricordo nel cast, tra l'altro, Jessica Chastain, James McAvoy, che ritroviamo, Bill Hader e addirittura Xavier Dolan, regista enfant prodige, forse uno dei talenti più esplosivi del cinema mondiale, nel cinema d'autore, che però è fan sfegatato di It ed è riuscito a entrare come attore nel cast. Questo insomma dà il senso anche di un'attenzione grossa da parte di chi produce questo film alla qualità del cinema e anche a certi nomi che magari in altri mondi verrebbero un po' scartati. Invece qui si è aperto un po' le porte anche della curiosità, se vogliamo, un mondo più cinefilo, no? Beh, lui è un grande fan del cinema pop. Quando era uscito il primo It era diventato famoso un suo tweet in cui diceva che era secondo lui uno dei film più straordinari che avesse mai visto nella sua vita. E lui tra l'altro è un grande appassionato di cinema americano, non è la prima volta che fa un cameo. Io recentemente l'ho visto anche in Sette Sconosciuti a El Royale di Drew Goddard, e anche lì aveva un piccolo ruolo di discografico perfido, bastardissimo e un po' razzista, che era insomma un ruolo molto accattivante. Allora andiamo avanti, adesso apriremo anche una parentesi sul cinema italiano, quindi mi tengo via Pinocchio per metterlo insieme un po' a tutto il giro del cinema italiano. Ottobre torna un altro marchio molto ingombrante come quello di Terminator. Sì, mi viene da ridere perché torna Arnold Schwarzenegger in Terminator, ormai avrà 90 anni Schwarzenegger, quindi non so come reggerà il ruolo questo Terminator. No, in realtà poi adesso con la computer grafica riusciranno a tramutarlo. Non ancora ha un problema di credibilità, perché è mezzo robot. No, è mezzo, esatto, sarà un cyborg ormai anche lui, esatto. Anche se noi non lo sappiamo. Torna lui, ma non torna soltanto lui, torna anche Sarah Connor e torna Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, quindi è assolutamente un ritorno totale al passato, i personaggi che l'hanno fin da principio reso un cult. Beh, insomma, io sono molto affezionato alla saga di Terminator, non vedo l'ora di vedere anche questo. Novembre è un po' il luglio dell'inverno, cioè anche a novembre esce poco a livello di grandi attese, ovviamente, ma dicembre parte un titolo come Rambo 5, hai parlato di Schwarzenegger, ecco, un altro che va per gli 80 anni e questo anni, non è neanche Rambo. Un robot, tra l'altro, quindi veramente siamo al di là del bene e del male, della credibilità. Beh, del resto uno che ha fatto un Rocky a 60 anni può fare veramente tutto. Sì, perlomeno diciamo che adesso lui in Rocky fa l'allenatore, tra l'altro ha detto che con Creed 2 che esce adesso inizio anno sarà l'ultima volta che incarna Rocky. Penso che sarà anche l'ultima volta che incarna Rambo, mi fa una grande simpatia, però è un po' ridicolo. Assolutamente, dai. Però invece il 12 di dicembre arriva nelle sale un film d'animazione che è diventato un super classico. Cioè io non pensavo di poter vivere ancora un film che partiva per essere un film per bambine, addirittura in questo senso, e diventasse, oltre che un successo miliardario, anche un film, qualcosa che si appiccicava proprio nell'immaginario di queste ragazzine, di questi bambini e anche dei propri genitori. Frozen è qualcosa che veramente è andato al di là di tutto, lo vediamo appiccicato alle cartelle, ai diari, alle patatine, ovunque, e adesso arriva questo Frozen 2, qui siamo di fronte a un altro dei probabili campioni di incasso dell'anno. Questo io credo che sarà un successo pazzesco. No, come dici tu, non mi è più capitato, non mi capitava da anni di confrontarmi con un fenomeno che ogni volta che ripassa in televisione, o anche semplicemente se uno lo mette su, che ne so, su Sky, richiamandolo col telecomando, ti trovi a vedere che la nonna, la mamma, la figlia e la nipote, tutte quante conoscono le canzoni di Frozen e le cantano a memoria. In questo caso parlo del primo Frozen. È stato veramente un fenomeno pazzesco, intergenerazionale. Non potevano che farne un sequel, e credo che questo sarà un film che di nuovo farà storia, cioè che batterà tutti i record. Una settimana dopo arriva nelle sale Star Wars e sarà un periodo, come dire, abbastanza intenso. Per il momento la data è 20 dicembre, Star Wars episodio 9, ci saranno tanti addii, tante lacrime anche qui. Sappiamo che il mondo dei fan di Star Wars si è un po' diviso su questi nuovi capitoli e anche sugli spin-off che sono venuti fuori qua e là, ma insomma il titolo è di quelli ingombranti. Senz'altro di quelli ingombranti. Diciamo che ha perso inevitabilmente la solennità che aveva una volta Star Wars, quando usciva un film ogni magari 3-4 anni, rivedevi gli storici episodi 4, 5, 6, li vedevi all'infinito, li sapevi a memoria, non partevo. Ormai esce un film di Star Wars ogni 6 mesi quasi, quindi chiaramente anche l'attesa per il film è un po' più diluita ed è un po' più simile a quella che noi, quella che per noi è l'attesa delle grandi serie televisive, cioè si è serializzato Star Wars. Adesso per il lancio della piattaforma di streaming della Disney stanno preparando anche un'altra serie TV live action che è tra il prequel e lo spin-off, quindi è un po' oberato ormai il mondo di Star Wars e quindi è impossibile attendere i film come capitava una volta. Ci siamo portati in fondo a questa corsa. Una ultima parentesi la vogliamo dedicare al cinema italiano, Giorgio, perché è chiaro che in mezzo a tutti questi blockbuster magari fa fatica a uscire, però qualche film che aspettiamo c'è, a cominciare dal mese di settembre, in cui arriverà il Pinocchio di Garrone con il Geppetto di Benigni, e questa è un'altra di quelle operazioni già circondate da una curiosità immensa. Sì, circondate da una curiosità immensa. Devo dire che è un progetto molto rischioso. Tanti grandi autori sono franati alla prova di Pinocchio, no? È una di quelle storie così straordinarie sulla carta e straordinarie anche nella versione Disney, che però poi quando sono state riprese non sempre hanno centrato l'obiettivo. Il migliore rimane sempre Comencini. Sì, alla sì, fine, senz'altro, cioè, senz'altro, gira che ti rigira, senz'altro. Rimane questo. Però è vero che è il nostro romanzo di formazione Pinocchio, e che la mano di Garrone, insomma, che ha già fatto i conti con la fiaba, no? Se ti ricordi qualche anno certo. fa. Il racconto dei racconti. Il racconto dei racconti. Per cui, insomma, sono curioso di vedere che immaginario darà questa come fiaba. La capacità di Garrone di raccontare il nero, la brutalità, saprà incrociare i momenti anche più tenebrosi di Pinocchio, perché insomma Pinocchio è una fiaba, ma è una fiaba con dei momenti molto forti. Certo, arriveranno nelle sale anche I migliori anni di Gabriele Muccino, Il traditore di Marco Bellocchio con Favino, insomma, cinema italiano tanto. Chiudo con un nome, Checco Zalone. Quando? Allora, Checco Zalone dovrebbe cominciare a girare a gennaio, e quindi bisogna capire se lo terranno per fine anno o per inizio addirittura del 2020, anche perché credo che le riprese dureranno qualche mese, e lì dipenderà molto da questioni legate al mercato. Quindi secondo me o il film esce a novembre o il film esce a gennaio, però ancora non è stato annunciato. Posso dire una cosa? Certo. Deve uscire anche il nuovo film di Mainetti, Freaks Out. Assolutamente. Il regista di Lo chiamavano Gig Robot, e per me personalmente è il film più atteso di un regista italiano dell'anno che sta iniziando, assieme proprio al primo re di Garrone che vedremo al 31 gennaio. È il ritorno del cinema italiano alle grandi produzioni di genere, coraggiose, ambiziose, con immaginari diversi a quelli a cui siamo abituati. Assolutamente importante, hai fatto bene a dirlo, perché c'è questo cinema italiano che si sta consolidando piano piano, e chiaramente sta anche al pubblico poi sostenerlo in sala, che è l'unico modo con cui sostenerlo poi fattivamente. Siamo arrivati alla fine, il 2019 l'abbiamo presentato, abbiamo parlato di una trentina di film, ce ne saranno appunto 400, ma La Rosa Purpurea c'è tutte le settimane, il sabato alle 18, per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Grazie a Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, per averci fatto compagnia. Grazie a te, ciao. Ci risentiamo.